andare, dove c'erano case luci da guardare. Quanto ero triste a dover tornare nel paesino bianco là sulla collina. Come faccio a stare qui insieme a te? Aria fresca da respirare, non voglio mica essere come mio padre, non voglio ancora andare a lavorare, insieme a vacche dura terra da mangiare, voglio andare via di qui senza te. A prender la valigia e poi scappare. Guardo da lontano il mio paese triste, con le case bianche là sulla collina. Come un riscatto paterno, ma senza di te. Adesso posso fare l'ingegnere e tanto sesso, diventare un vero uomo di città e non sentire questo odore di campagna. Forse adesso non so se ci riesco così. Spazio per poter ballare, forse non so mica se ho fatto bene ad andare via dal mio paese, forse purtroppo mi sa che io devo tornare. Da guardare e la gente che non ti saluta mai. Quando io pianto piano con mio padre, lui ha sorriso con le sue mani. Torna a casa, tua madre aspetta che torni. Questa dura terra che è da amare, poi qui non ci sono più.